gli effetti del lockdown sull'adolescenza e sugli effetti del lockdown in generale, ovviamente è tutto un tema nuovo. Quindi sono partita da un tentativo di analisi della letteratura presente consultata attraverso banche dati di riviste internazionali, quindi diciamo non è limitato al contesto italiano, ma a quello che succede un pochino nel mondo. Tra gli aspetti biologici, l'ho messo tra virgolette perché non sono proprio esattamente biologici, ma hanno dei correlati, abbiamo degli effetti su disturbi del sonno, aumento e perdita di peso, quindi possibile aumento di disturbi alimentari e questo è un dato trasversale, una riduzione di esercizio fisico. Molti autori riportano anche quanto sia importante però non vedere solo gli aspetti negativi, ma capire anche se ci sono aspetti positivi. Alcune ricerche riportano alcune come ipotesi, altre come dato reale, quindi rilevato attraverso questionari e ricerche, un maggiore riposo, quindi aumento delle ore di sonno. Spesso sappiamo che gli adolescenti hanno una sorta di deprivazione di ore di sonno anche nella vita normale, e appunto alcuni una riduzione di cefalea, soprattutto in chi soffriva di disturbi, come dire, seguito dal Sistema Sanitario Nazionale. Per quanto riguarda gli aspetti psicologici, vi è un lungo elenco di possibili effetti negativi sugli aspetti psicologici. Quelli più studiati in assoluto e riportati con maggiore frequenza si riferiscono ad un aumento di aspetti ansiosi e depressivi, percentuali che sono molto variabili, vanno dal 12 al 20, al 30, in alcuni casi anche al 40%, e si riferiscono solitamente a persone che hanno raggiunto dei livelli di ansia a livello patologico. Altri elementi possono essere bassi livelli di ottimismo, questo in una ricerca italiana di Mus e Cassiba, ridotte aspettative per il futuro, peggioramento della qualità della vita, anche se in uno studio di Tang il 24% riportava un miglioramento della qualità della vita, maggiore stress, minore consapevolezza emotiva, assenza di routine, scarsa produttività ed efficienza, maggiore solitudine, percezione di solitudine, e molti studi anche riportano maggiori sintomi di disturbo di stress post-traumatico, quali evitamento, alterazione dello stato di allerta, umore e anche alcune appunto sudorazione, cioè tutta una serie anche di reazioni psicofisiologiche. Questo aumenta molto di più negli adolescenti che avevano già avuto traumi precedenti. Non vi sono al momento evidenze di maggiore rischio suicidario, ci sono già dei dati raccolti in alcuni stati, Giappone, Olanda, Germania e Nuova Zelanda, ovviamente però bisogna fare una valutazione longitudinale. Non ci sono evidenze rispetto a effetti degli apprendimenti negli adolescenti, ma alcune ricerche stimano sulla scuola primaria una riduzione del 32-37% dalla terza primaria alla seconda media nella lettura. Tra i possibili elementi positivi, molti riportano più tempo per attività piacevole, più tempo per i genitori, più tempo per pensare ai propri obiettivi e minore stanchezza. Tra gli aspetti sociali ci sono dati un po' contrastanti e difficili da capire su quanto e chi ha mantenuto le amicizie e in che modo, quindi sulla frequenza e la numerosità dei rapporti sociali, perché ovviamente è difficile distinguere tra quelli in presenza, a distanza e in quali modalità. Sicuramente però tutti riportano un netto incremento dell'uso delle tecnologie, addirittura più di il 10% arriva a passare più di 10 ore con tecnologie, e quanto è maggiore il tempo passato su social, tecnologie di varia natura, questo si associa spesso a maggiori livelli di ansia e depressione, quindi maggiore disagio psicologico rapportato al maggiore uso di tecnologie. Possibili effetti positivi, quello di comprendere l'importanza delle amicizie e di sentire una minore pressione sociale. Questo è un primo quadro, però, come dire, molto basato su aspetti, rilevati proprio nei primi mesi di lockdown. Quindi diversi autori suggeriscono quanto sia importante predisporre, pensare a ricerche e progetti che valutino i possibili effetti a lungo termine. I possibili effetti a lungo termine si riferiscono in particolar modo anche al concetto di rischio cumulativo, cioè il lockdown da solo può portare, come dire, a un certo tipo di effetti, ma come questo va a sommarsi a precedenti fattori di rischio, cioè spesso spesso il lockdown va a sommarsi ad altre situazioni di criticità, e quanto più aumentano questi fattori di rischio, questo rischio cumulativo dell'individuo, quanto più poi gli effetti a lungo termine possono essere più marcati. Ovviamente bisogna tenere conto anche di quelli che possono essere i processi di resilienza messi in atto dall'individuo, dai sistemi e dalle famiglie.